Il tema è delicato e imbarazzante, ma bisogna togliere subito un falso atteggiamento culturale ed entrare nell'ottica del Dio di Israele tre volte santo, il quale nella sua parola parla di mestruazioni, spesso e in modo esplicito. L'Antico Testamento vi dedica almeno un capitolo. Si sa che ogni argomento in relazione alla sessualità è un inevitabile imbarazzo, ma ciò è dovuto alla nostra malizia. Così, la cosa più saggia non è nascondere la realtà delle cose, ma è parlarne in modo obiettivo e puro. Purtroppo, siamo talmente imbarazzati di fronte a tutto ciò che ha a che fare con la sessualità, che spesso anche i traduttori si sono vergognati di tradurre le espressioni così come sono nell'originale ebraico. Atteggiamento questo che impedisce a chi legge di comprendere in tutta la sua forza ciò che l'Eterno vuole dire. In definitiva, noi abbiamo moralizzato la parola di Dio. Abbiamo nascosto termini ed espressioni che l'Eterno ha usato per comunicare al suo popolo. E questo non è buono. Si può lodare la motivazione dei traduttori di non voler apertamente esprimere certe verità, ma anche l'imbarazzo è la motivazione più sublime, come quella di Pietro che non voleva che Gesù morisse in croce. Gesù la ritenne satanica, perché non rientrava nella volontà di Dio. Così i traduttori dovrebbero scrivere le parole o espressioni nel modo corrispondente all'italiano, sia per non rendere malizioso il lettore, il quale è costretto di volta in volta a chiedersi a cosa si riferisce, sia per la giusta comprensione del pensiero di Dio. Se il santo di Israele non si è vergognato di usare espressioni e parole riferite al sesso, il cristiano, che deve essere perfetto come lo è suo padre, non deve essere di meno. Proprio per questo, sono d'accordo con chi ha detto che chiunque rifiuta di battezzare la sessualità ha la sua parte di responsabilità se essa rimane eternamente pagana, e gli uomini con essa poiché è la più forte. Per cui il silenzio imbarazzato, quando la conversazione verte intorno al sesso, le traduzioni volutamente moralizzate, non sono in nessun modo testimonianza di pudore, ma al contrario di vergogna, perché si vede la sessualità come una macchia. Gli adulti che si vergognano dell'erotismo e non ne parlano con i giovani che non sanno come usarlo rettamente, avranno degli sposi cristiani che trasudano noia da tutti i pori e che avranno per figli dei felici pagani. Il compito del cristiano non è quello di proteggere, di coprire, di preservare il sesso, ma quello di formare, di istruire, di insegnare. Per fare un solo esempio di come si siano moralizzate le traduzioni della Bibbia, è sufficiente una espressione che troviamo nel profeta Ezechiele al capitolo 16, versetto 25. Leggiamo nelle Bibbie: rivedute ti sei offerta ad ogni passante. Tale espressione dà l'idea di una donna disponibile. La Bibbia di Salvatore Garofalo traduce: moltiplicando le tue prostituzioni così da irritarmi. Il senso è più preciso e marcato, ma non esprime ancora il senso ebraico. La Bibbia di Gerusalemme traduce: offrendo il tuo corpo ad ogni passante. L'espressione è molto più forte, ma solo la Bibbia delle Diodati, la Bibbia Concordata e la Nardoni sono più esplicite e realiste, rendendo, allargando le gambe per darti ad ogni passante. L'Eterno non si è limitato a definire una vaga disponibilità illecita di Israele nei confronti di altri dei, ma ha voluto scendere nel particolare indiscutibile dell'atto sessuale, svergognando in tal modo pubblicamente il suo popolo. Così, poiché vi è questo imbarazzo nei confronti di tutto ciò che riguarda la sessualità, anche quando in ebraico troviamo il termine mestruazioni, alcuni cambiano parola. La Bibbia tradotta a cura di Salvatore Garofalo traduce così l'ordine dell'Eterno che troviamo nel libro del Levitico al capitolo 20 e versetto 18. Colui che giace con una donna inferma e ne scopre la nudità, ne denuda la sorgente, lei scopre la sorgente del proprio sangue, li reciderete ambedue dal loro popolo. Difficile da comprendere cosa stia vietando l'Eterno, soprattutto difficile saper interpretare l'infermità della donna che può essere di qualsiasi natura. La cosa è seria perché l'Eterno comanda di ucciderli tutti e due. Se leggiamo invece in tante altre Bibbie, il testo del Levitico viene tradotto così: se uno si corica con una donna che ha le mestruazioni e ha rapporti sessuali con lei, quel tale ha scoperto il flusso di quella donna. Ed ella ha scoperto il flusso del proprio sangue, perciò tutti e due saranno tolti via dal mezzo del loro popolo. Dopo 3 o 4 mila anni, un ordine del genere non può essere ignorato, anche perché i profeti in seguito hanno ripreso il popolo di Dio perché aveva relazioni sessuali con la donna durante le sue mestruazioni, Ezechiele 22:10. Queste riflessioni hanno lo scopo di ricordare 3 insegnamenti che l'Eterno vuole dare in merito alle mestruazioni, il primo dei quali è che l'uomo non deve avere rapporti sessuali mentre la donna è mestruata. Insegnamento questo, non certamente vano, perché ancora oggi certe persone non lo osservano. Una seconda motivazione che ci fa capire perché occorre tradurre la Bibbia con le parole esatte è che in questo modo comprendiamo la gravità del messaggio dell'Eterno. Ancora una volta l'omertà è alleata del colpevole. Così troviamo tradotto nella maggioranza delle Bibbie il testo di Isaia 64:5. Siamo tutti come una cosa impura, e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco. Avvizziamo tutti come una foglia, e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Il profeta sta dicendo, da parte dell'Eterno, che davanti a Dio siamo tutti spregevoli, e che le nostre opere sono come un panno sporco, o immondo, come traducono altre. Il senso è chiaro, ma non rende la ripulsa dell'Eterno, come invece è nell'ebraico. Siamo diventati tutti come una cosa impura, e come panno di mestrui è la nostra giustizia. Non si tratta di cavillare sulle parole, o di volersi esprimere per amor di contraddizione con termini che potrebbero anche essere evitati, ma non usare le espressioni con le quali si è espresso il Dio trino delle Scritture non solo è mancanza di fedeltà al testo, mancanza tra l'altro esplicitamente condannata da Dio stesso, ma ci rende colpevoli della mancata chiarezza del Vangelo. Si sa che un marcato errore dei religiosi è il pensiero di ottenere favore o salvezza dalla loro divinità mediante opere giuste. Il cattolicesimo è il paladino in questo settore. Tanto è vero che nella mentalità di un cattolico la verità più difficile da accettare è che egli non possa salvarsi tramite le proprie opere. Conosco cattolici che sono disposti ad accettare tutto del messaggio del Vangelo, ma non accettano che la loro giustizia, la loro bontà o le loro opere siano inefficaci. Ora, se noi presentiamo la verità che tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco, l'impatto di tale messaggio è relativo, perché un abito sporco non è poi una cosa così ripugnante. Anzi, la moda a volte presenta abiti che palesemente sembrano sporchi. Ma se il messaggio di Dio è che siamo diventati tutti come una cosa impura e la nostra giustizia è come panno di una mestruata, l'ascoltatore rimane visibilmente scosso. Inoltre, per noi questo messaggio viene recepito anche in parte, ma per gli ebrei, dato che la donna mestruata era esclusa totalmente da ogni funzione religiosa, il senso è che qualsiasi cosa facciamo nel campo religioso per ottenere la salvezza, noi siamo ripugnanti agli occhi di Dio. Concetto questo che non può essere reso solo alludendo a un panno sporco. Una terza evidente verità che scaturisce da questo argomento è la necessità di esprimere pubblicamente la propria fede. Cosa c'entra la fede con il nostro tema? Non è un volere per forza ridurre sempre ogni argomento alla necessità di essere dei cristiani confessanti? Penso proprio di no. Ecco cosa leggiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 5. Mentre Gesù camminava, molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno, e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». L'episodio di Gesù con la donna mestruata è molto imbarazzante, eppure gli evangelisti Marco e Luca lo hanno riportato, e poiché tutto ciò che è scritto lo è per nostro ammaestramento, consideriamo ciò che ha da dirci. Se l'episodio è imbarazzante, cerchiamo, se siamo in grado, di comprendere l'imbarazzo della donna. Era una donna di fede, ma aveva un problema che preferiva non rivelare. È normale. Inoltre, si trovava in un luogo affollato, dove a causa delle sue condizioni fisiche non doveva trovarsi. Colmo dei colmi, nonostante essa non dovesse toccare nessuno perché era impura, toccò Gesù che era un maestro nella legge. Doppia colpa. Ma nonostante tutto, guarì. Ormai poteva tornarsene a casa, ma Gesù ha voluto spudorarla davanti a tutti ed essa ha dovuto confessare pubblicamente la sua vergogna e le sue colpe. Questa è la fede cristiana. Chi diventa figlio di Dio mediante un atto di fede consapevole in Cristo Gesù è chiamato, come la donna mestruata, a confessare pubblicamente, anche se non nei minimi particolari, la sua condotta di prima. L'Apostolo Paolo confessò di essere stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento, 1 Timoteo 1:13, ma con altrettanta franchezza ha dichiarato che Gesù Cristo era il suo unico Signore e Padrone. Chi non sconfessa il passato e non confessa Cristo Gesù, quale unico mediatore tra Dio e gli uomini, ritenga il suo operato agli occhi di Dio come il panno di una mestruata. L'ha detto l'Eterno Dio, e nulla ci è da aggiungere come nulla è da togliere. Settembre 2005 09:27 Ellero.